Il conto energia è finito in 10 giorni, immediatamente. Sintomo che esiste una grandissima domanda inespressa di energia solare e di pannelli fotovoltaici. E occorre rilanciare immediatamente. Quali sono le iniziative che avete in cantiere? Il panino, intanto, il panino. Dipende dalle risorse che abbiamo in finanziaria. Più risorse abbiamo, più possiamo dare incentivi. Tradotto in termini pratici, so che GRTN pare che rinnovi il finanziamento, ma mancano indiscrezioni in merito, rimane tutto molto teorico, ci mancano qualche dato, qualche informazione in più. In Italia le indiscrezioni sono una costante, quindi quando comincia ad arrivare indiscrezioni vuol dire che quello è ciò che vogliamo. Ma vogliamo raggiungere la Germania sul solare o ci accontentiamo di questi 100 megawatt? Noi vogliamo produrre il più possibile dal solare, così come dall'eolico, produrre più certamente di quello che produciamo, allargando il più possibile. Se poi raggiungiamo la Germania, tanto meglio. Un inceneritore o un termovalorizzatore? Se è un inceneritore è un discorso, se è un termovalorizzatore è un altro. Io sono favorevolissimo ai termovalorizzatori, credo che la soluzione nel mondo non esista una diversa. Ministro, lei ha detto che gli inceneritori sono il futuro, ma gli operatori del settore sostengono che gli inceneritori rubano il materiale agli impianti di riciclaggio, quindi dicono o l'inceneritore oppure la ricicliamo, perché parlano di carta, plastica, o la plastica si ricicla, dicono, oppure la mandiamo all'inceneritore, o uno o l'altro. Evidentemente sono in disaccordo con me. Però,